Bene, buonasera a tutti e ben ritrovati qui nel centro Trevi, Trevi Lab, e in questa occasione di iniziativa con la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta. Un saluto da parte di tutto lo staff della biblioteca e in particolare dalla nostra direttrice, la dottoressa Valeria Trevisan, che adesso non può purtroppo essere presente per un'importante riunione lavorativa, forse ci raggiungerà più tardi, ma comunque un caro saluto anche da parte sua, e all'ospite di questa sera il professor Luca Zan, docente presso l'Università di Bologna, che stasera ci presenta il suo libro Vetro di Murano, storie di mestieri e fornaci. Vi ricordo che questa iniziativa è nata insieme alla collaborazione con la Ripartizione Sviluppo Economico, così come anche l'Ufficio Artigianato e Aree Produttive. Per questo ringrazio anche la dottoressa Manuela Defant, così come anche la dottoressa Elena Lucio per questa collaborazione. Prima di entrare nel vivo di questa serata, di questa iniziativa, vi rubo soltanto un minuto per ricordarvi le prossime iniziative, i prossimi eventi della biblioteca. Ci ritroviamo sempre domani alla biblioteca alle 5 per il nostro gruppo di lettura. Adesso stiamo leggendo Il fuoco invisibile di Daniele Rielli, che è uno dei libri candidati al premio Strega per l'anno 2024. E abbiamo il nostro solito gruppo di lettura di narrativa locale. Poi ci ritroviamo invece al centro Trevi la prossima settimana, sempre di martedì a quest'ora, insieme alla psicologa e psicoterapeuta Giuliana Franchini, insieme alla quale analizzeremo il concetto della maternità attraverso l'analisi di alcuni dipinti. Molto interessante, perché sarà un'analisi da un punto di vista della psicologia e dell'educazione. Il giorno seguente, mercoledì 15, sempre alle 17.30, ci troveremo sempre qui di nuovo invece per la presentazione del volume Costruire la nuova Italia, miti di Roma e fascismo, in una collaborazione nata con il Circolo Culturale Ampi, che analizzerà la storia del mito della Roma antica all'interno dell'ideologia della propaganda fascista. Le iniziative da noi sono sempre tante, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati sui nostri canali. Abbiamo il sito web, i canali social, la nostra newsletter a cui potete sempre iscrivervi. E tutte le nostre iniziative, i nostri eventi sono registrati, come anche quello di questa sera, quindi nel caso in cui vogliate ripercorrere alcuni momenti significativi o recuperare alcune vecchie iniziative, avete sempre la possibilità di accedere dal nostro sito e ascoltare. Non mi dilungo oltre, lascio la parola al dottor Lampis e vi auguro un buon ascolto. Buonasera, allora io di solito non lo faccio, ma oggi ci tengo personalmente a presentare l'autore, il coautore di questo libro. Io sono il direttore del Dipartimento Cultura Italiana e Sviluppo Economico, adesso si chiama il nostro dipartimento, e da moltissimi anni la nostra ripartizione cultura gestisce questo centro Trevi. Ma come sapete io sono stato anche direttore generale dei musei italiani, e devo dire che io devo il mio interesse per i musei, adesso lo dico in pubblico perché non l'ho forse detto a lui oggi, proprio a Luca Zan, perché per chi fa questo mestiere, cioè chi gestisce il settore cultura con un'attenzione ai riflessi che il sostegno degli artisti e della cultura ha sull'economia di un territorio, sull'economia generale, non ha mai potuto fare a meno di leggere gli scritti di Luca Zan e di sapere che a Bologna c'era un professore che ha creato, appunto, sia dal punto di vista della docenza attraverso un graduate degree importantissimo che si chiamava Gioca, ma era una roba seria, si chiama ancora adesso, sull'organizzazione e l'innovazione nel mondo dell'arte. E quindi io appena arrivai direttore di questa ripartizione alla fine degli anni 90, nel 2001 andai a Londra perché lui organizzò a Londra un incontro sui temi innovativi del fare cultura, del sostenere la cultura sui musei e non musei. C'era John Tusa, me lo ricordo come se fosse adesso, insomma, il mitico direttore della BBC. Cioè, a Londra c'erano le persone più importanti d'Europa in un corso organizzato da lui, molti importanti esponenti italiani. Io ero giovane in questo mestiere, adesso lo faccio da 26 anni, e quindi fu una tappa fondamentale del mio percorso e per questo lo ringrazio e per questo sono contento che anche lui si sia interessato non solo di economia ma anche della produzione, dell'arte. Un altro tema che mi appassiona è quello dell'artigianato e qui il vetro di Murano riprende i temi culturali con quelli della grande manifattura italiana, la grande tradizione e l'artigianato. Quindi di tutte queste cose vi parlerà lui, io ci tenevo a salutarlo, a presentarvelo e vi auguro buon ascolto e mi sposto dalla parte di chi ascolta. Grazie Luca. Grazie, grazie mille, grazie dell'invito di questa presentazione di questo libro e grazie di questa introduzione. A questo punto non posso che peggiorare con un... un'anticipazione così, qualsiasi cosa non può che andare peggio. Ecco, questo libro che abbiamo fatto, Vetro di Murano, storie di mestieri e di fornaci, volevo soprattutto inquadrare innanzitutto il perché fare questo libro. Allora, esiste una letteratura sterminata sul vetro di Murano, bellissima, libri costosissimi tendenzialmente, sempre molto idealizzata ed estetizzante, no? Il bello del libro, il bello del vetro, scusate. Allora, se voi vedete un trattore, capite che un trattore è un oggetto pesante e presumete, capite subito che c'è un processo produttivo pesante, no? Il vetro, leggero e leggiadro, che ci sia dietro sangue, sudore e lacrime è meno appariscente. Quindi avete questi libri veramente uno più bello dell'altro, qui ce ne sono alcuni ma sono bellissimi, Stanze del vetro ultimamente negli ultimi 10 anni a Venezia, all'isola di San Giorgio, ha fatto delle cose stupende, soprattutto su Venini, questo non si è capito perché solo prevalentemente su Venini, con questa selezione di vetri veramente, questo è forse uno dei più belli. C'è pochissimo sul lavoro, sul vetro, visto in prospettiva di azienda, di business, c'è 2 o 3 libri della CGIL sostanzialmente o di autori vicino alla CGIL e molto poco a livello di studiosi di economia aziendale e c'è anche molto poco di quella che in gergo si chiama letteratura grigia, cioè non necessariamente libri, articoli pubblicati, ma per cui l'idea nostra è proprio quella di entrare dentro la fabbrica e con una battuta guardiamo il lato B del vetro, il back office di questo enorme questo distributore di miele, no? Si parlava oggi di miele, no? E questo qui è il retro, questo se voi andate a Fondamenta dei Vetrai a Venezia, a Murano, la parte per i turisti, questo è il retro, potrebbe sembrare Manchester ottocentesca, questa è la fotografia che noi abbiamo messo sul libro proprio a ricordare, no? Il lato B, il retro, il back office. Allora, questo è il primo problema, letteratura che non c'è sulla gestione, sugli aspetti economici. Il secondo problema è che in questo settore, è un settore molto articolato, con una quantità di prodotti molto diversi, in cui ciascun prodotto ha un processo produttivo suo, specifico, diverso, con varietà di lavorazione. E anche qui non c'è nulla di scritto, non ci sono manuali tecnici, non ci sono... è tutta conoscenza tacita, è tutta conoscenza on the job e nulla si può trovare, quindi di solito quando tu scrivi funziona, vai in libreria, in biblioteca, cerchi tutto quello che è stato scritto, te lo leggi o comunque le cose rilevanti, ti fai un'idea e poi qui non c'è nulla da leggere sostanzialmente, salvo quei 2 o 3 libri che dicevo. Tra l'altro con queste carriere che sono molto lunghe e incerte, in cui ci si impiega decenni per diventare eventualmente maestro, quindi qui proprio a vedere queste lavorazioni una diversa dall'altra, per cui se quella di prima è totalmente diversa da questo tipetto, no? Con lavorazioni sembra semplice, ma questi 2 pezzi di ferro che stanno attaccati e che congiungono le diverse parti devono incontrarsi sulla linea perfetta, girare alla stessa velocità, se no si spacca tutto altre lavorazioni varie. E la cosa interessante è che questo succede per il vetro artistico, ma succede anche per il vetro industriale in larga parte o per parte, come vi farò vedere. Per esempio le murrine e le canne. Allora qui queste robe che poi servono per fare composizioni varie, sostanzialmente in questo caso un semilavorato dell'industriale per l'artistico, poi l'industriale continua a fare anche cose proprie, e lì mi trovavo dentro nella fabbrica e qui stavano tirando la murrina, questa era una murrina più semplice, era semplicemente a due colori, e lì ero lì, questa cosa me l'hanno spiegata mille volte, quando l'ho vista fare sono rimasto senza parole. Se parte il video, se no esco e lo faccio partire, parte, ecco. Facciamo con le cattive, usciamo di qua e lo facciamo di qua. Questo sta facendo questa massa. Adesso vorrei alzare l'audio, perché l'audio è rumore, è inquinamento acustico. Se voi andate dopo, questo lo dico dopo, questo riprende questa massa e la porta intorno ai 1000 gradi, continua a girare. L'ossessione di chi fa il vetro è continuamente a girare, perché il vetro sopra diventa plastico, ma sopra il proprio peso cede, quindi se non girate mi fa un gocciolone. Questo qui, vado un attimo avanti, ed sono lì, ecco qua, che adesso tirano fuori questa cosa. Questa è una massa a 1000 gradi che gli passa a 20 centimetri dalla faccia. Questo comincia a fare, e questa danza del vetro in cui tirano 50 metri di roba allo stesso spessore, vedete in terra ci sono già altri vetri. Tra l'altro, quando questo l'ho fatto vedere ad altri due dei nostri attori, di cui poi parlerò, direttore di produzione della Barbiere Toso e è un maestro vetraio, sono rimasti senza parole, nel senso che loro in fabbrica lo facevano di 2-3 metri. Guardate l'abilità e la tecnica con cui gira la massa vetraria, dall'altra parte poi l'ho ripreso, questo uomo che continua lentamente a camminare, col piede sposta quello precedente. Questo tra l'altro è il padrone, quando sono capitato lì quel giorno due operai erano malati, quindi il padrone si è messo a fare, non è che lo fai senza sapere, no? Conoscenze che diffuse all'interno dell'azienda. Ecco, questa era partito alla fine, adesso torniamo a noi. Quindi questo è anche la produzione industriale, non è solo la produzione artigianale. Quindi allora, come facciamo noi a scrivere di questa roba qui, dove non c'è nulla di scritto? Quello che c'è scritto è di arte del vetro e non di lavoro. L'unica è fare storia orale, e quindi ci siamo messi a fare interviste in profondità a 4 testimoni. Potevamo mettere come sottotitolo del libro 4 personaggi in cerca di 3 autori, nel senso che noi siamo 3 autori che hanno scritto il libro, ma abbiamo lavorato su 4 interviste, cioè quindi una storia orale molto selettiva su 4 persone fatte molto in profondità. E questi personaggi sono personaggi rappresentativi, potevano essercene altri, no? Però personaggi abbastanza interessanti. Giovanni Toso, ex direttore, figlio della proprietà, barbiere e Toso, una parte di Toso, e direttore della produzione per circa 20 anni. Lucio Moretti, direttore di produzione della Venini, quindi le 2 più grandi e 2 aziende diversissime, no? La Venini, l'azienda innovativa che ha rivoluzionato la storia del vetro di Murano. Ma poi abbiamo intervistato un maestro vetraio, Livio Serena, un maestro importante che ha fatto cose importanti, che ha lavorato anche con designer, e un tecnico impianti, Giovanni Fiammengo. Perché questo tecnico impianti? Ho dovuto metterlo dentro le interviste inizialmente, non avevo capito l'importanza, perché questi sono rapporti familiari. Noi abbiamo cominciato con l'idea di, vabbè, proviamo a vedere, perché andando a Murano continuamente, da quando ho comprato casa a Murano, la mia famiglia di Murano, tutti i contatti familiari, si parla, si continua a parlare aneddoti su aneddoti, dice, ma perché non scriviamo qualcosa? Però non avevo idea di cosa sarebbe venuto fuori. Nel frattempo abbiamo preso il Covid, il metano in mezzo, quindi non è stato facilissimo. E questo Giovanni Fiammengo è interessante perché era un altro dei parenti, e quindi in realtà poi ci ha detto cose assolutamente importanti, ma all'inizio non avevo capito bene il perché. E l'unica domanda è la vostra vita professionale, punto, raccontateci. E qui abbiamo avuto interviste lunghissime, due interviste a testa di circa 3 ore, con incontri plurimi sugli elaborati. Tra l'altro buffo, perché abbiamo vissuto la storia dell'intelligenza artificiale nel giro di 4 anni. Abbiamo cominciato e dovevamo pagare uno studente per fare le trascrizioni delle nostre interviste registrate, e poi è venuto, adesso lo fai con Word online e ti trascrive tutto con un po' di errori, ma è stato veramente... Allora abbiamo avuto questa massa di informazioni incredibile, 62.000 parole belle e incasinate. Beh, incasinate perché? Da una parte perché è normale, quando parli, quando si parla si fa casino. Non so se avete in mente le trascrizioni delle intercettazioni, no? Quando uno parla, ferma la frase, si interrompe, cambia soggetto, dice come fanno a capirsi, però ci si capisce, e questo è normale. Poi è normale quando tu parli della tua vita, incominci per i primi 5 minuti, sei lineare, poi fa un salto in avanti, salti in indietro. Con la seconda intervista è l'anarchia, salti in avanti, sopra e giù. Ma c'è poi un altro problema che è colpa nostra, nel senso che mi ricordo ancora proprio l'intervista con Giovanni Toso, che padrone di fabbrica, direttore poi, però si è fatto i suoi 17 anni di fornace, di gavetta, e ti racconta, allora sono entrato in fabbrica a 15 anni, ho fatto i primi 2 mesi nella piazza con un maestro, e gli altri 6 anni nella piazza. Tu sai cos'è la piazza? No, e allora comincia a parlarti della piazza. Quindi l'intervista diventa una confusione di idee, cognizioni, immagini, impressioni sul settore. Che farne? Allora, qui di queste 62.000 parole, si possa fare quello che normalmente si fa. Gli aziendalisti sono maestri in questo lavoro vorrei dire, di espropriazione, se non di furto. Dice, va bene, metto tutto in un shakeraggio e ti dico cosa ho capito e ti spiego come funziona il settore del vetro. Noi abbiamo sempre avuto l'idea che la cosa che volevamo fare alla fine era presentare il libro in varie sedi, ma soprattutto e prima di tutto a Murano e ai vetrai. Quindi non potevamo giocare questa carta, adesso ti spiego come funziona. E quindi abbiamo fatto una scelta radicale di storia orale, cioè le nostre non sono solo fonti orali, ma la restituzione è se stessa orale, cioè noi abbiamo fatto parlare loro, li abbiamo aiutati un bel po', nel senso che queste 62.000 parole sono un disordine incredibile, ripetizioni, pezzi di italiano che non tornano, inconsistenze. Allora li abbiamo rimessi a posto, in ordine, e li abbiamo lasciati parlare. Perché? Perché se noi facevamo una sintesi, magari, voglio dire, la nostra tecnologia è la parola, io da 40 anni che parlo sostanzialmente, insegno, scrivo, parola orale o scritta è la mia tecnologia, sono molto più bravo, quando questi ti incominciano a spiegare in mezzo in muranese, in mezzo in italiano, cioè noi chiaramente avremmo messo in modo molto più efficiente, no? però ti perdi milioni di sfumature di vita, di contesto, probabilmente anche tecniche che non riuscire. Allora lasciamoli parlare, è la loro vita. Devo dire, la soddisfazione più grossa di questo libro è, come diceva un amico, dice, si legge come un romanzo. È il primo lavoro che non è noioso di quelli che scrivo in 40 anni. Io ho scritto sempre cose molto interessanti, credo, ma anche molto noiose. Questo invece è un lavoro che si legge con piacere. Ma poi appunto, perché così si lasciano questi dettagli, si lascia questo poetico di questo italiano non sempre stabilissimo. Adesso abbiamo un problema, lo pubblichiamo anche in inglese questo libro, la nostra proposta è stata accettata da Pagre, dobbiamo tradurre questo italo-muranese. Però noi ci abbiamo messo tantissimo perché abbiamo veramente, praticamente ogni frase l'abbiamo codificata, rimessa in ordine, spostata, per cui abbiamo ricostruito, li abbiamo fatto parlare manipolandoli in modo consapevole su tre livelli. Uno sono quello che loro dicono del contesto. Uno, quello che sono le loro vite professionali, che all'inizio era la sola cosa che ci interessava, ma per fortuna non l'abbiamo definita in modo così chiaro, perché abbiamo preso su una sorta di rumori di fondo che è tutto grasso che cola, come si dice a Bologna, e poi una riflessione sulla crisi. Ecco, quindi questo l'indice, la parte centrale, due terzi del libro, sono le storie orali su memorie sul comparto, le esperienze dei quattro professionali e la crisi. Dopodiché abbiamo lavorato anche noi, anche noi abbiamo scritto un'introduzione che spiega, cerca di dare un contesto del perché di questo libro, dare quel poco di dati che ci sono, e sono drammatici, nel senso che gli occupati del vetro in Murano sono passati da 8.000 a meno di 1.000 e le prospettive sono veramente molto critiche. Però diciamo, questa è un'introduzione per chi non sapesse nulla del vetro di Murano, e poi ci siamo presi il gusto, l'onore, l'onere, il divertimento di riflettere su tutto ciò, cosa abbiamo capito noi e cosa ci sembra particolarmente interessante. Ma poi l'appetito viene mangiando, nel senso che c'è stata una cosa fondamentale, una riunione fondamentale che ho fatto, che mi ha fatto con le altre mie due coautrici, Maria Lusiani e Jessica Tanghetti, a circa due terzi del lavoro, dice: che ne facciamo di queste 62.000 parole? Noi viviamo, ahimè, noi viviamo all'università come nel settore del management. Il settore del management, ormai più di 8.000 parole un articolo non te lo accetta. Quindi come fai? Devi fare l'introduzione, la literature review, le considerazioni, discussioni. Quindi al massimo te ne prende 3.000-4.000 di parole dell'empirico. Come fai? E allora, riflettendo animatamente, approfonditamente, aremengo in Veneto, aremengo la pubblicazione, le riviste di management, facciamo un libro. E questo libro ci prendiamo tutta lo spazio, il tempo e la voglia di raccontare, per cui ho cominciato per esempio a venirci voglia di fare anche un apparato iconografico, un po' di foto, perché no, ma poi anche un'appendice documentale di filmini di cui dopo avete intravisto un pezzo. Ci sono 14 video con QR, codici QR, parti registrate da noi, parte presi, chiesta autorizzazione copyright a Barovier, Venini, a Promovetro, e anche l'autorizzazione a smontarli e a manipolarli come volevamo, e poi le nostre rappresentazioni, le nostre riprese, tra l'altro queste commentate, una sorta di visual ethnography, commentate dai nostri informants, anche lì in realtà prima o poi scriverò il backstage, no? tipo alto gradimento, perché tu cominci a commentare, è difficilissimo commentare un filmino che va due minuti e fa tutta questa operazione, cioè si comincia scusatela, è veramente divertente, è stato un lavoro divertentissimo. per fare sta roba non so quante takes ho dovuto fare ora che si è impellinato sulla parola, è finito il video, oppure si mette a ridere oppure sta lì parlando, gli manca la parola, cioè veramente molto difficile, ma anche molto, molto carino come lavoro. Prima o poi farò anche il backstage. La seconda appendice, man mano che andavo avanti, c'era questo Livio Serena, il maestro, aveva lavorato con Oira, lì c'è anche un libro su Oira, che è un designer molto interessante, persona molto per bene, lui, non tutti i designer. Maledizione, questo era tornato in Giappone nel 19 ed è morto. Quindi, man mano che andavo avanti, cioè, maledizione, ho perso l'occasione per intervistare una persona cruciale. Ho trovato un bellissimo libro di uno storico dell'arte che ha scritto questo libro costosissimo su Oir, sulle opere di Oir, da collezionista, con attaccato un'intervista bellissima. Gli ho scritto: mi dai l'autorizzazione a pubblicarlo, tradurlo in italiano? In Italia non l'ha visto nessuno, c'erano due libri venduti in Italia di questa cosa, quindi ho recuperato in modo diverso, non è la nostra storia orale, è un'intervista strutturata, quindi come Brandi mette, no, nel restauro, distinguere le diverse cose, questa è in appendice, non è roba nostra, però è molto interessante, molto bella. Ecco, queste un po' le cose, questa è l'appendice, abbiamo preso e manipolato i primi cinque sono pezzi di documentario appunto di queste ditte, che se voi andate sul loro sito hanno queste bellissime riprese con Bach, Vivaldi, Pachelbel, invece quando va in fabbrica c'è un rumore maledetto. Allora io la prima cosa che ho fatto, la loro l'ho lasciata così, poi ho mischiato i pezzi, c'è la seconda serie di filmini che cerca di evidenziare alcune operazioni, no, che ritornano, si pesca il vetro, si soffia, si taglia, cosa che i miei interlocutori non riuscivano mai a commentare, perché essendo artigiani, cioè quando ti parlavano di quella lavorazione, era quella lavorazione che veniva dopo quell'altra lavorazione, precedente a quell'altra lavorazione, per quel prodotto, cioè senza una grossa capacità di estrarre in sé, veramente interessante. Poi le mie, che sono sostanzialmente quella sulla F3 che vi ho fatto vedere, più un'altra sulla F3, sulla preparazione della massa vetraria, e quella della produzione di due vasi veronese da parte di un maestro vetraio, bellissimi. Io sono entrato lì, volevo alcuni dettagli per dare documentazione di operazioni varie, stavano facendo la base di una ciofeca per qualcuno che faceva lavoro a lume, e se aspetti devo fare due veronesi, certo che aspetto. Ti dispiace se riprendo, ho tirato fuori il mio cellulare, sono diventato un documentarista, ne ha fatti due, quindi i pezzi che ho perso da una parte l'ho potuto ricostruire, e in 20 minuti questo pezzo bellissimo che poi trovate a 1800 euro, bellissimo, dal niente, è quello lì, è tutto lì diviso in qualche filmato, perché uno solo era troppo. Ecco, queste un po' le ragioni. La cosa interessante è che questa cosa qui è venuta chiara dopo, ed è venuta chiara veramente a due terzi del lavoro, mentre all'inizio ai miei parenti, perché questi sono parenti, due di questi sono parenti, ragazzi io non so cosa viene fuori, cominciamo poi vediamo. C'era anche una memoria di uno di questi che però era impubblicabile, vabbè, concetto, allora risultati, mi fermo su alcune cose, concetto chiave, concetto di piazza. Poi altre cose di cui abbiamo parlato e nel libro parliamo, su processi produttivi, lavori in fornace, dinamica di mercato. Ma il vetro di Murano, allora scusate, io non parlo del vetro di Murano, parlo del vetro che è nella vita di questi quattro personaggi che hanno trovato noi tre autori. Nel senso che del vetro a lume non parlo, non parlo di sculture, perché questi non hanno fatto. Quindi è... non vuole essere una ricostruzione sistematica del settore del vetro, è una ricostruzione della vita di questi signori, e del loro modo di vedere il settore. Allora, questi si vedono, questi, è una cosa incredibile, e dopo lo vedremo ancora, come è un lavoro incredibilmente articolato. La cosa che mi ha sorpreso di più, quanto poco in fondo si soffia nel vetro soffiato, e sostanzialmente non è neanche il maestro che soffia molto spesso. In questo caso il garzone o il servente che soffia mentre il maestro gira e modella. Ma nei 20 minuti, adesso voglio fare un calcolo dei tempi e metodi prossimamente, nei quei 20-23 minuti di produzione del vetro, se arriva a un minuto là, il soffiare è tanto, ma non ci arriva. Quindi vetro soffiato sì, ma non solo. È veramente un lavoro collettivo, e la piazza è proprio la cellula elementare, no? la produzione a isola, si direbbe in economia aziendale, e noi qui la chiamiamo produzione a isola di Murano, giusto appunto, nel senso che questo, cioè, avviene tutto all'interno di, non c'è interazione tra questi tre e altri tre che lavorano. Se tu vuoi aumentare la produzione, puoi cercare di aumentare i ritmi di questi, ma sostanzialmente l'unico modo è replicare il modulo e quindi avere un'altra piazza. Quindi una fortissima interazione, interdipendenza, con varietà su varie produzioni, con incredibile abilità materiale, capacità di direzione e trasferimento delle capacità da parte del maestro. Dopodiché, queste le cose più importanti che appaiono da questa ricostruzione del contesto. Poi le sono le quattro storie personali. Aspetti in comune, bassa scolarità. Uno è andato a lavorare a 15 anni, uno è andato a lavorare a 12 anni, uno è andato a lavorare a 14 anni. Se voi andate a vedere i filmini del tempo, trovate un fenomeno che oggi non sarebbe più ammissibile, di lavoro minorile. Qui c'era un campanello speciale, quando arrivava i vigili arrivavano, suonavano il campanello e i bambini si nascondevano. Però il lavoro minorile assolutamente diffuso, scolarità bassissima, non hanno la terza media, l'intellettuale del gruppo ha il diploma di superiore, precoce ingresso in fabbrica, totale localismo e fidelizzazione. Questi hanno iniziato la loro vita e l'hanno finita la loro vita in Murano. Ecco, e qui ci sono due tipi, adesso non voglio fare statistiche perché con quattro persone non si fanno statistiche, però è interessante, due modelli che penso che siano abbastanza importanti da segnalare. Una legata alle famiglie, alla proprietà o al clan, il capitale relazionale, chi è figlio del padrone o chi è comunque nella rete di... e questi sono i due direttori, e chi è senza capitale azionario o relazionale, che lì entra e si fa le ossa in modo indipendente, il maestro e il fabbro. Dopodiché ci sono le quattro storie, che qui non voglio fare lo spoiler e quindi vi contestualizzo semplicemente. Giovanni Toso, direttore della produzione della Barbiera e Toso, dopo 17 anni di carriera, in cui ha fatto le varie fasi. 17 anni sono poche, non era ancora maestro, però vuol dire che il vetro lo sa ben lavorare, figlio del Paron, e negli anni 80-90 prende, insieme al figlio dell'altro Paron, dell'altra metà della proprietà, Jacopo Barovier, prendono la direzione, uccidono i vecchi, fanno fuori i vecchi, e devo stare attento perché si è registrato, poi era una battuta questa, e sostanzialmente prendono in mano, con una gestione più moderna, incominciano a parlare di contabilità, di controllo di gestione, di obiettivi, e inizia una serie di innovazioni tecniche notevolissime. Tenete conto che il problema dell'inquinamento negli ultimi 40 anni è stato una delle grosse sfide per una delle produzioni più inquinanti e più energivore che l'umanità abbia mai. Allora, questa è l'albero della Barovier, che parte nel 1200. Cos'è importante qui? La cosa più importante, questa qui è mia mamma. Perché senza mia mamma non saremmo qui, ma al di là almeno io, al di là del fatto che appunto sotto mia zia qui aveva due figlie, più altre. Queste due figlie hanno sposato, una il direttore di produzione della Baronia Retoso, l'altra il fabbro di cui parlavo prima. Senza questo aggancio personale io non avrei fatto nulla, perché non mi sarebbe venuta l'idea, perché non avrei mai fermato un maestro, scusa, ti dispiace, ti rompo le scatole, ti rubo due giorni di lavoro e poi non so perché cosa. Ecco, quindi questa è la, però insomma, questa è la famiglia antica, questa è la fabbrica antica, e ahimè oggi venduta, proprietà passata, non c'è più la famiglia. Benigni, esperienza molto interessante del direttore di produzione della Benigni, Lucio Moretti, itinerante, ha fatto molte aziende, artistico, industriale, parte del gruppo, della lobby, del gruppo di potere di Benigni e degli uomini di Benigni, con un approccio molto più analitico, ha fatto anche, studiato contabilità, ma non gli è servita la contabilità, gli è servita l'aritmetica. Questo è il foglio di una delle produzioni giornaliere, questi calcoli delle varie composizioni fatte dalla stazione sperimentale del vetro, che già vi fa vedere su 20 di queste produzioni ci vuole un attimo di... Però la cosa viva di questa sono gli appunti che ci sono sopra, che fanno vedere un processo faticoso, no? di gestione e digestione di questi numeri, quindi in modo molto più analitico. Ma la cosa bella anche di questa, cioè ci racconta dal punto di vista del direttore di produzione la storia della Benigni e dei passaggi di proprietà della Benigni in questo periodo turbolento in cui viene, muore Benigni, interviene il genero, ma poi alla fine c'è un takeover da Gardini, vi ricordate Gardini, la chimica sono io, anche il vetro voleva essere io, anche il vetro. Lì comincia un processo incredibile di instabilità della proprietà che paradossalmente ha poco impatto, nel senso che rimangono i tecnici, rimangono i direttori della produzione e le cose vanno avanti. Certo che se da economista aziendale io dovessi giudicare questa azienda, già da subito veniva Benigni e Campanini, cioè voglio dire, un'azienda per essere una buona azienda, oltre che fare della bella arte, dovrebbe anche vivere e continuare a vivere. Ecco, questo qui, la Benigni, insomma, rimandata a settembre da questo punto di vista. Con anche qui, in questo caso, innovazioni tecniche di gestione, di controllo. Il maestro, ah, bellissimo, il maestro non poteva mancare, maestro, posso dire, una delle domande finali così in una qualche spritz, perché qua è faticosissima questa ricerca a base di spritz o di è la domanda che gli ho fatto, ma a te manca questa, ormai eravamo in confidenza alla fine, ti manca il lavoro del vetro? Dice, me lo sogno ogni notte. Me lo sogno ogni notte. Che anche questo qui non è scienza dura, però insomma ti fa capire qualche cosa. Maestro inizia, diventa maestro, la ditta fallisce, ricomincia da capo. È il gioco dell'oca, si ricomincia da capo, ritorna maestro e lui si definisce, cioè, io non sono un creativo, però è un bravo esecutore. E allora per giustificare questo ho cominciato a fare le foto di quello che lui faceva, questa è roba che ha in casa, tipetto, questa è una delle opere più geniali, demenziali al tempo stesso, è bellissima, di Ovira, ideata da Ovira, fatta da Lucio, da Livio. Questa è una replica, nulla di, questa è del 500, ma non fa. Questa è secondo me uno dei pezzi più belli, questo è un pezzo della Barovière del 1895, quindi non ha inventato nulla, però se l'è fatta, tra l'altro l'ha fatta alla scuola Zanetti come dimostrazione, c'era lì in casa, io ho chiesto di tirarla fuori per fare la foto, sembrava bravissimo. E qui con Oira, e questo, vedete il quadro, non si vede niente, ma credetemi, questo è Oira, questo è il fondo del vaso di Oira, firmato Yoichi Oira e Livio Serena. Questo grande designer, e lo dice in modo incredibilmente lucido nell'intervista, dice, io non faccio nulla da solo, cioè l'opera è mia e degli altri, non posso rubare il lavoro degli altri, se non c'è il maestro vetraio io non faccio nulla. Quindi c'è estremamente interessante. Il tornitore, storia incredibile, lunga carriera, cominciata anche lui 14 anni lavorando quando non c'era crisi, sabati, spesso domeniche, quando c'era crisi, dalla gavetta responsabile degli impianti della F3. E lui è andato a lavorare sempre nello stesso tempo, nonostante la Ulderico Moretti sia fallita, subentrata da Moretti sia fallita, poi sono tre fallimenti. E poi adesso da 20 anni c'è l'F3, ma lui ha continuato a fare la stessa strada come se nulla fosse, no? questo fallimento della proprietà, che è estremamente interessante anche nel suo non incidere in fondo, con innovazioni tecniche incredibili da un punto di vista impiantistico, con l'invenzione per esempio di siccome ci sono ingenti investimenti nel processo di trattamento delle acque e dei fumi, in realtà molta parte della produzione di vetro grezzo, il cotisso come si chiama, viene fatta dall'F3 e le piccole vetrerie comprano il vetro già prodotto, già fatto, non lo fondono, lo rilavorano, però in questo modo non si devono fare carico degli investimenti della prima lavorazione. E questo, ecco, prima vi faccio vedere la canna a due colori. La canna a due colori non c'è modo di industrializzarla, perché invece con un colore solo, queste sono linee di montaggio, è un laminatoio in cui automatizzato questa striscia di miele fondente che deve continuamente girare, anche qui se non gira si appiattisce, cosa che hanno fatto automatizzato in una bella impresa industriale con ingenti investimenti, dicevo prima, dal punto di vista di fumi, smaltimento di fumi e inquinamento delle acque. Risultati, la crisi, cerco di andare un po' veloce, la crisi è enorme, cioè tenete conto che per un periodo nel dopoguerra Venini faceva bulbi per lampadine, cioè non lampade artistiche, lampadine quelle. Per cui è chiaro che nel processo di divisione del lavoro internazionale, di trasformazione tecnologica, cadono molti degli usi. Facciamo prodotti per la farmaceutica, tutta questa roba qui, l'industrializzazione ha preso ritmi forti, si è demuranizzata, è andata in terraferma, drastica riduzione del numero delle aziende e degli addetti. E con un problema enorme di passaggio generazionale su cui tornerò dopo, con mancanza di scuole del vetro professionalizzanti. Adesso la scuola della Battezzaletti, che è una scuola storica, era stata riattivata da anni con queste cose un po' strane, per cui insegnava a figli di ricchi e di turisti americani o francesi un po' di lavorazione, poi è diventata scuola, adesso è equiparata, per cui esci di là e va all'università. Per carità, capisco che questa è la tendenza, però se impari a andare, cioè studi matematica, italiano, per andare all'università, probabilmente non lavori il vetro come lo lavoravano una volta, perché tu arrivi a 18 anni che sei assolutamente privo di capacità tecnica, magari cultura ne hai, che va sempre bene, ma... Le cause della crisi, esogene, nuovi materiali, la plastica ormai sostituito in mille cose il vetro, concorrenza internazionale, 80% del vetro di Murano, cosiddetto vetro di Murano in Murano, è cinese. Okay? E qui c'è un fenomeno molto interessante di concorrenza interna tra produzione e distribuzione. I peggiori nemici dei vetrai muranesi sono i bottegai di vetro di Murano che vendono le ciofeche. Devo ricordarmi che è registrato anche questo, ma vabbè, si fa per dire. Però questi sono i dati che riporta la Promovetro. Politica fiscale è un eufemismo, cioè il nero qui era una cosa incredibile, ancora oggi probabilmente, non per le grandi, però questo toglie ogni veleità a chi come me avrebbe anche intenzione di andare a studiare i bilanci, lascia stare, cioè, non... un iceberg in cui tu vedi là, c'è tempo perso, anzi è fuorviante, perché sai che fregnacce dici sulla base di dati. E poi endogene, scelte strategiche aziendali, molte si delocalizzano, vanno in terraferma e via di seguito. Ecco, queste un po' le cose di cui noi parliamo. Mi avvio a concludere. Conclusione. C'è un problema che i nostri testimoni definiscono come problema generazionale, che non è solo un problema generazionale, no? Nel senso che se voi andate... c'è una fotografia storica nel libro e vedete questi operai con i bambini e gli operai con i capelli neri. Adesso con i capelli neri in fabbrica non c'è più nessuno. No, sono tutti con capelli bianchi. Non è una perdita di sapere, ma la perdita di attori che vogliono fare. C'è questo numero incredibile di riduzione delle aziende, di riduzione non solo delle aziende ma anche della dimensione delle aziende, cioè in realtà, scusate, aumentano le aziende e si riduce il numero di addetti, quindi c'è una polverizzazione delle aziende e si riduce soprattutto il numero delle piazze per singola azienda. La Baroviere Toso, che in fondo è la più grossa, ha ad oggi 4 o 5 piazze di 3 o 4 persone, quindi vuol dire che ci sono 15-18 persone che tengono in piedi questo impero. Alla Venendi circa anche un po' di meno. Tutto il resto sono aziende da una piazza, una fragilità incredibile. Ecco, questo è il problema che noi diciamo, non è tanto un problema di crisi generazionale, è un problema di crisi vocazionale. Nessuno va più in fabbrica, nessuno vuole andare a sputare sangue, certamente nessuno vuole andare più in fabbrica, nessuno... E per cui non si trovano più sostituti, non si trovano più, il turnover non riesce a essere. Questo perché? Credo che certo è un problema generale, voglio dire, i giovani d'oggi vogliono fare altro e probabilmente hanno ragione a non voler andare a lavorare a 10, 12, 14 anni, hanno il diritto di non andare fino ai 18, però probabilmente c'è anche un problema di non riconoscimento di questo lavoro, cioè c'è un problema secondo noi di rilegittimazione del lavoro manuale, in cui le stesse imprese in fondo sono colpevoli. Noi andiamo a vedere la home page bellissima della Venini, ci sono 5.200 parole, non so quante pagine, ma 5.200 parole dedicate ai vari designer. Ci sono 200 parole dedicate indistintamente ai maestri. Allora, chi di spada ferisce, no, di spada perisce. Allora, alla fine, poi... Ecco, e l'altra cosa incredibile in questo problema, che probabilmente è un problema che non è solo di Murano, è un problema generale, nazionale, però voglio dire, dove di policy, di sviluppo, di interventi, di politica industriale, non c'è traccia. L'idea di avere... Murano come patrimonio intangibile dell'umanità forse potrebbe essere non dico una strada o una soluzione, ma almeno l'inizio di una riflessione, no? Cosa che invece non è stata fatta, è stata iniziata, non è stata interrotta, e la cosa incredibile è c'è un problema di urgenza, perché sta veramente rischiando di finire almeno questo tipo di vetro, almeno questo tipo di produzione, almeno questo tipo di conoscenza, di capacità. Ecco, qui sostanzialmente ci sono una serie di implicazioni più generali sul lato B, no? Sia per quanto riguarda il vetro, sia per quanto riguarda, per esempio, anche nella letteratura internazionale sull'artigianato si fa della poesia, no? Il bello dell'artigianato, no? Ti fai la birra artigianale, sì. È sangue, sudore e lacrime comunque, no? Nel senso, e c'è anche un problema di fabbrica, di disciplina di fabbrica che è cruciale. E con la centralità dei processi micro, aziendali, organizzativi in senso lato, di cui noi abbiamo cercato di rintracciare un po' le cose. Finisco su questo problema, proprio di questa riflessione generale sulla creatività, qui parlavamo anche che oggi, no, nella visita a quella bella esperienza che avete anche qui a Bolzano. Se voi andate a leggere sul dizionario italiani o anche inglesi, c'è veramente un'ambiguità in questa idea di creatività, che alla fine specifica e dedica il concetto di creatività all'opera di ingegno. Cioè è proprio l'idea. Allora, cos'è l'invenzione, questo vaso di Veronese? È la forma, è il disegno, o è l'oggetto nella sua materialità? Allora, se io guardo Veronese, Zecchin, 1921, fa questo quadro. Neanche lui inventa molto. Perché si chiama Veronese? Perché è preso dall'Annunciazione di Maria del Veronese. Se voi vedete qui, questo qui è il vaso che poi Zecchin riprende. Si chiama Veronese, questo vaso proprio. Dubito che Veronese abbia disegnato di sua sponte, abbia inventato il vetro, questo vaso. Già disegnare un vaso di vetro deve essere un'opera incredibilmente difficile per un pittore, è un vaso trasparente, probabilmente semplicemente ha rappresentato quella che era la tradizione. Allora, a questo punto, di chi è il non dico il copyright, ma di chi è l'autore, chi è il creatore? E questo, secondo me, c'è questo processo continuo di reinvenzione di questa forma e di, in un certo senso, in cui Zecchin certamente la ripropone, fattibile, la prototipizza in fondo, in modo che si impone come standard. Queste sono le forme, le dimensioni del vaso veronese. Tu, esecutore, non devi inventare nulla da questo punto di vista. Queste dimensioni fanno il veronese. Se non lo fai così, è un vaso bellissimo, ma non è un veronese. Ciò non toglie che però, quando voi assistite alla costruzione, alla produzione di questo, sono pochi minuti dei 23, cioè da nulla voi vi trovate questo, guardate questa apertura, è una delle cose più affascinanti, no? Una volta che l'ha aperto e diventa il piedestallo, è chiaro che è un piedestallo, non poteva che essere così, no? E sembra semplice, no? Sembra logico. Però dire, dal nulla esce questa forma. Adesso qui ho fatto dei tagli feroci, con delle operazioni che anche lì sembrano, se sbagliato un secondo qua si rompe tutto. Queste rimettono, fanno l'altro pezzo, rincollano col vetro, perché a Murano non si usa la colla. La base adesso la stanno rincollando, vedete ancora con queste due assi che devono essere perfettamente allineate e muoversi perfettamente sincronamente. Guardate il lavoro di squadra, cioè e anche lì tra un po' guardate, tic, con questa mossa staccano. Se la fate voi questa mossa, e qui alla fine proprio l'ultima, che è veramente tic, si è staccato ed è andato via. Ecco, questa è la creatività che forse va recuperata, no? Ecco questo. Sì. Lei diceva che si sta perdendo, no? Sia numericamente che qualitativamente, personale, eccetera. Quanto guadagna un lavoratore del vetro, un maestro, così? Perché che colore vuole? Se questi giovani vedessero che nell'arco di qualche anno guadagnano 5.000 euro al mese, forse andrebbero a lavorare. Guadagnano 4-5.000 euro al mese. Sì. 4.000 ne guadagna. Un maestro bravo ne guadagna anche di più. Sì, però. No, ma anche. Ma anche. Ha 50 anni, cioè dopo 30 anni. Forse no. Però in realtà, voglio dire, c'è stato una delle cause che a volte si si fa riferimento è l'appiattimento salariale, per cui da questo punto di vista rispetto alla sua domanda, anche un giovane che entra guadagna bene, cioè guadagna nei suoi 1500-1800, cioè appena sa fare qualche cosa, per cui il soldo non manca, per cui non, cioè non è il settore turistico, no? Dice che non c'è la manovrazza, non paghi nulla, fai fare dei turni maledetti, capisco che non abbiano voglia di andare. Qui il lavoro è duro, la fabbrica è dura. Ma evidentemente non c'è un rapporto tra sia la durezza del lavoro, la qualità artistica che devi avere e la remunerazione. La remunerazione in senso... No. Perché anche 2000 euro per uno che va a lavorare lì, insomma all'inizio, a fare i vetri di Murano, non è che va a fare le lampadine... Sì, no, ma la remunerazione, allora, quello che io dico sempre ai miei studenti, la remunerazione cioè, siamo abituati al target italiano degli stipendi, che è ormai da pezzenti. Certo, però sono... questo c'è... Cioè, in realtà è molto meno da pezzenti che in altri settori, cioè il problema e poi uno va visto, lo vede in prospettiva, se uno alla fine va in pensione e ogni notte si sogna il vetro, vuol dire che oltre alla remunerazione economica, che comunque c'è, perché poi ci sono i premi di produzione, cioè, ci sono le integrazioni, però voglio dire c'è anche una remunerazione psicologica molto forte, cioè certamente che cioè proprio, è proprio il valore sociale attribuito a questa fatica che manca, ma credo che questo sia un problema generale, solo che qui è dirompente, perché taglia numeri, taglia le basi, cioè i figli di vetrai tendenzialmente non vogliono fare vetrai, no? C'è un processo di promozione sociale che rischia di essere deleterio. Sta parlando di Murano, infatti questa è la cosa sconcertante, non c'è persona al, detta così un po' forte, cioè, non c'è persona al mondo che non conosca il vetro di Murano, nel mondo occidentale o nel mondo... è veramente, io odio il termine brand, lo odio, però è un brand incredibile, è un potenziale pazzesco, ma chiaramente c'è un cambiamento epocale, no? di tecnologia, di usi alternativi, di sostituzione del vetro, di prezzi, perché voglio dire un bel vaso come quello lì te lo paghi 1.800 o anche 3.000 o anche 5.000. Io ho sempre il problema, dicevamo prima, del gatto, che poi se c'è questo vaso qui il gatto te lo butta giù, non c'è assicurazione che tenga, quindi... però voglio dire sono anche prezzi molto, e in compenso hai questa banalizzazione dei prodotti di importazione con un turismo di massa, ancora una volta ricordiamoci che Venezia è la città con 30 milioni di turisti e 50 mila abitanti, e questo turismo da cavallette, questo che Lucchetta definisce i nuovi barbari, che arriva, ma se ti frega di andare a pagare 1.000 euro o se non 3.000 o 500 euro, c'è la cosa cinese, ma tanto non lo sai neanche che è cinese, quindi la prendi e sei felice. E finché non c'è un controllo su questo, c'è un consorzio che protegge, ma ormai se tu vai in qualsiasi negozio c'hai delle fake news, allora da una parte c'è il consorzio Promovetro, quindi la certificazione, l'altro è prodotto artigianale, tutte cose che il normale visitatore non ha capacità di distinguere, e quindi l'80% del vetro venduto a Murano è ciofeca, è cineseria. Non ci fosse questo, probabilmente non ci sarebbe questa domanda di massa, ma probabilmente si sarebbe potuta qualificare un po' la domanda stessa, e quindi in un qualche modo qualcheduno dovrebbe fare qualcosa. Questa è la cosa sconcertante, da un punto di vista di policy non c'è nulla nell'agenda politica. Non dico di questa amministrazione, anche quelle precedenti non hanno mai brillato di iniziative da questo punto di vista. Nel comune di Venezia, nella regione. Esatto. No, quando diceva prima che sia Benini che l'altra, l'Africa grossa 4-5 unità. Certo. È praticamente niente. Certo. No, ma infatti è sconcertante. Infatti la cosa interessante, proprio se uno capisce il concetto di piazza, cioè non è tanto la riduzione, no, la riduzione delle dimensioni medie, l'aumento del numero di aziende e la riduzione degli addetti, quindi la riduzione delle dimensioni, è la riduzione drammatica di piazze, quindi che vuol dire che sono tutte aziende, salvo 3 o 4 o 5, sono aziende mono piazza. Va in pensione, scappa, si stufa il maestro, è finita. Voglio dire, non, diciamolo pure, non è facile pensare questo, non è il nostro lavoro, nel senso che ci bastava ricostruire il quadro, però come riflessione così di agenda, non tanto di ricerca, ma di policy, di politica, non è facile risolvere una cosa del genere, ma se non cominci, cioè non c'è discussione su questo. Certo, infatti questo è un bel esempio proprio di riconoscimento sociale del lavoro, no? Dicevo, parlavamo prima, in America, non so se lo trovate su Netflix o su altro, c'è una serie, Blown Away. Esatto, in cui c'è una gara, cioè col solito format demente di X Factor, di tutte queste cose che io odio profondamente, però tanto per dire, c'è una serie di, in questi sono 8-10, poi sostanzialmente soffiatore, è tutto vetro soffiato, almeno quello che ho visto e mi ricordo, e c'è la solita eliminatoria, e poi vince queste cose, disgustose, va bene, però vuol dire che qualcuno la guarda e la serie continua, quindi che gli americani facciano una cosa del genere e non l'abbiamo pensata noi, cioè dice, no, dice tutto sulla nostra capacità di valorizzazione e di promuovere le nostre eccellenze. Le ambasciate italiane nel mondo. Certo. Lei ha parlato di 1.000-2.000 euro. Sì. No. Beh, un rezzone ti costa 80-90 mila euro. Voglio dire, cioè, questo per dire che il mercato ci sarebbe e probabilmente c'è ancora un tipo di mercato perché gli estremamente ricchi sono aumentati. Certo. La Barovier non ha avuto problemi nei due Covid e nella crisi del metano che ha decuplicato il costo del metano, non ha avuto cali di fatturato. Quindi la domanda ci sarebbe, manca l'artigiano, però è anche vero che forse l'idea potrebbe essere di appunto valorizzare questo tipo di professionalità nei confronti dei giovani, fra i 5.000 giovani uno ci sarà che viene affascinato. Certo. Certo. Ma infatti, cioè io stesso quando sono andato a vedere, cioè, questo vaso fatto ti stordisce, cioè, sono uscito tipo sindrome di Stendhal, ma che bellezza, ma perché non lo fai vedere a tutti? Sì, nelle scuole, lei lavora nell'ambito. Sì. Potrebbe magari farsi promotore. Ho scritto il libro. Adesso tu arrivi, ci sono i butta dentro, cioè, anzi probabilmente arrivi già già indirizzato se arrivi con Lancione, cioè c'è un sottomercato del contatto, no? Per cui tu arrivi, c'è il butta dentro, dice di là, in inglese, francese, russo, tedesco, tutte le lingue, non andate da Rio de Vetrai, ti manda dall'altra parte dove ci sono queste fornaci da turista. Adesso, una volta, prima del Covid, la Promovetro organizzava dei giri fatti bene, no? Però dopo il Covid non ha ancora ripreso. Per cui il turista normale scende, non capisce, se è Murano, arriva e viene subito fagocitato da questa catena di bassa lega.